L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta, di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Che rumore fa la doccia? La doccia direi che fa una roba così, no? E gli sci sulla neve? E gli sci sulla neve vanno sempre così. E quando si vuol dire di fare silenzio? Scusa, anche qua viene fuori Allora, adesso immaginiamo che ci sia una ricercatrice che vuole registrare una doccia all'aperto e lì dove è lei passa uno che va sugli sci e che canta ad alta voce e la gente gli dice di stare zitto. Come si fa? Non è una delle ricerche scientifiche più diffuse. Lucia Luzzi non registra docce all'aperto ma terremoti. È una ricercatrice degli NGV e dirige la sezione di Milano. Benvenuta a Darwin, Luzzi. Grazie, un saluto a tutti voi. Voi sismologi avete approfittato un po' di questa emergenza coronavirus per fare che cosa? Ci racconta un po' quali sono state le vostre attività di osservazione della Terra in questo periodo eccezionale di lockdown dove tutte le attività umane praticamente erano interrotte. Dunque, noi come INGV gestiamo una rete, la rete sismometrica nazionale che ha stazioni installate in tutta Italia. E in seguito al lockdown abbiamo avuto questa idea, cioè di registrare il livello delle vibrazioni sismiche di fondo, che vengono dette anche rumore ambientale, per vedere se il lockdown poteva causare una variazione del livello dell'umore ambientale che registriamo noi comunemente con le nostre stazioni. Non è venuto solo in mente a noi, perché anche in tutto il mondo è stato fatto uno studio simile. In particolare un ricercatore belga, Thomas Lecoq, ha pubblicato un articolo su Nature proprio sulla riduzione del rumore ambientale a livello mondiale e ha trovato che questa variazione è dell'ordine del 33%, quindi una variazione notevole. Cioè il sismografo è un apparecchio che ha una sensibilità impressionante. Misurando qua in Italia voi sentite addirittura delle tempeste che sono in Nord Europa, nel Mare del Nord? Sì, perché diciamo quelli più sensibili possono registrare le vibrazioni impercettibili dell'ordine dei nanometri e quindi noi possiamo registrare le vibrazioni anche di episodi che avvengono anche molto lontano. Un'autostrada sulla quale non vanno più camion e macchine per 2 mesi, per 3 mesi, voi riuscite a capire che cos'era prima e che invece è stato adesso con il lockdown. È andata così. Sì, certamente. Quindi provando a semplificare, voi misurate il rumore di fondo, adesso sapete che cos'è e riuscite a isolarlo quando ad esempio ci saranno degli eventi più importanti e più disturbanti? Questo è un po' il contrario, no? Perché noi l'abbassamento del livello di rumore di fondo fa sì che le vibrazioni impercettibili che sono causate da quei fenomeni fisici che comunemente vengono mascherati dal rumore ambientale, in questo periodo di lockdown sono stati più evidenti e quindi noi riusciamo a percepire dei fenomeni che prima erano mascherati dal rumore ambientale. Per quanto riguarda i terremoti invece no, chiaramente non dobbiamo preoccuparci perché i terremoti li registriamo sempre, perché comunque le stazioni, quelle che servono per la localizzazione dei terremoti, vengono installate in località che generalmente sono con un rumore ambientale molto basso, tipo fuori dai centri abitati, in zone di montagna. Senta Luzzi, però ci deve spiegare una cosa: la Terra è una pallona, anzi un po' un patatoide enorme, gigantesco, mi pare che si sappia anche quanto pesa, ma come può essere che un camion, dei veicoli riescano a lanciare queste perturbazioni piccole, ma che però ci sono? Sembrerebbe che diciamo un corpaccione così grande dovrebbe assorbire tutto, non trasmettere, invece è sensibilissimo. Sì, perché le vibrazioni generate ad esempio, come ha detto lei, dal traffico, da dai macchinari industriali, generano delle onde di superficie che viaggiano lungo la superficie della Terra. E quindi per questo noi le registriamo. Questo è stato un periodo eccezionale, ovviamente sotto molti aspetti, però dal punto di vista di voi ricercatori e misuratori del movimento terrestre è stato davvero un periodo unico, non era mai accaduto prima, cioè un silenzio così esteso e così lungo nel tempo, è stato davvero eccezionale. Sì, è stato veramente un evento eccezionale e tra l'altro tutte le stazioni della rete nazionale trasmettono i dati in continuo al centro di acquisizione che è a Roma, dove c'è la sala sismica, e quindi i dati registrati in continuo vengono comunque immagazzinati e sono accessibili a tutti, e questo succede non solo in Italia ma per altri osservatori che sono in Europa. Quindi per i ricercatori di tutto il mondo sarà un'opportunità irripetibile, perché le registrazioni di questo mese di lockdown saranno disponibili per tutti e quindi tutti potranno condurre degli studi con i dati privi di rumore ambientale. Che tipo di studi potreste fare adesso sulla base delle osservazioni di questo periodo? Sì, sono tutti gli studi che implicano dei fenomeni che vengono percepiti solo a livello di vibrazioni piccolissime, ad esempio la variazione della velocità delle onde sismiche dovute per esempio alla variazione della falda acquifera oppure a delle vibrazioni che magari cose che noi non conosciamo perché prima non le vedevamo. Staremo a vedere. Allora, un buonissimo lavoro a voi ricercatori e osservatori della nostra Terra. Buona ricerca, Luzzi. Grazie mille. Buona ricerca, Luzzi. Sì, abbiamo raccontato un esperimento che effettivamente ci darà e ci ha già dato grandi risultati. Però, insomma... Speriamo che non si ripeta, almeno, con tutto il bene che vogliamo ai sismologi, insomma, speriamo di no. Va bene, un saluto agli ascoltatori e ciao Federico, alla prossima puntata. Ciao Chiara, un saluto a tutti. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.